Il punto di Stefano Folli. Non c'è dubbio che la civiltà del dibattito pubblico e il rispetto reciproco sono gli ingredienti base irrinunciabili se vogliamo continuare a essere una comunità nazionale, e allora non sono ammissibili, è evidente, gli insulti razzisti di un vicepresidente del Senato. Ma nel momento in cui si chiedono le dimissioni di questo signore, bisogna anche avere il coraggio di ammettere che le minacce sessiste a Mara Carfagna, esponente del centrodestra, e le continue battute sulla statura di Brunetta, altro esponente del partito di Berlusconi, e persino certe volgarità sull'aspetto fisico di Berlusconi stesso, ebbene tutto questo armamentario appartiene alla medesima famiglia degli insulti di Calderoli. Se si riconosce questo, la civiltà del confronto avrà fatto un passo avanti importante. Se si riduce tutto al razzismo di un leghista, che pure c'è, come quasi che gli altri fossero senza peccato, allora avremo fatto il solito giochino politico strumentale.